Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno da Marta Cagnola, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Il filo conduttore della puntata, i giovani alla riscossa. Ci è venuto in mente perché, sentirete il nostro primo, anzi la nostra prima ospite. Giovani che grazie alla tecnologia si fanno strada nel mondo con Enrico Pagliarini. L'appuntamento con il gastronauta questa settimana, giovani artigiani del cibo e cuochi emergenti in tutta Italia. Tra cinema e TV il mito di Violetta è arrivato all'ultimo capitolo. Chi sarà il nuovo mito delle ragazzine? Ne parleremo sempre nella prima ora del nostro sabato. Ma prima andiamo in Svezia, perché questa sera la finale dello Eurovision Song Contest, il festival musicale che riunisce l'Europa. Abbiamo incontrato nel backstage della Globen Arena di Stoccolma la nostra Francesca Michelin, la carta su cui punta l'Italia. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere. Francesca, intanto ti devo chiedere se era come te l'aspettavi, perché tu hai fatto una lunga strada per arrivare fino a qua, era come te l'aspettavi? Sì, però è andato addirittura oltre le mie aspettative, cioè è veramente stupendo, è un contesto in cui si respira proprio la voglia di fare musica, quella vera, e è tutto curato nel minimo dettaglio, c'è un grande entusiasmo da parte di tutti, è organizzato tutto in maniera proprio precisissima, e veramente proprio un piacere fare l'artista all'Eurovision, lavorare qui, partecipare a questo evento. Hai incontrato persone, hai incontrato artisti, hai incontrato musiche, credo che sia anche una cosa che alla tua età sia importante per imparare, per arricchirti. Sì, io credo che questa esperienza, a prescindere dall'aspetto artistico, sia una grande prova, di una grande scuola di come si vive, di come si condivide, di come si cresce nel dialogo con gli altri, nel confronto con gli altri, anche nell'abbracciare le diversità che poi ti rendono più ricco interiormente. In questi anni l'Italia prima è tornata allo Eurovision, poi è cresciuta mano a mano perché abbiamo preso confidenza con la manifestazione, sì. E tu hai fatto una cosa che nessuno aveva mai fatto, una cosa bellissima, cioè addirittura il tuo Eurovision è partito dall'Italia, da casa tua, da Bassano, e hai fatto un viaggio pazzesco per arrivare qua. Non è che hai preso un aereo e hai fatto Bassano-Stoccolma? No, no. Allora, la scelta è dovuta al fatto che comunque il mio brano Nessun Grado di Separazione, o Degree of Separation, è ispirato alla teoria dei 6 gradi di separazione. Mi piaceva rendere simbolico tutto questo e iniziare già quindi da una settimana prima a costruire la mia performance sul palco, facendo questo viaggio che percorre appunto 6 tappe per l'Europa, che sono appunto Bassano, che è la mia città natale, Bassano del Grappa, Vienna, Varsavia, Berlino, Copenaghen e appunto Stoccolma, distribuendo dei semi a tutte le persone che ho incontrato, invitandole a piantarli e a farmi sapere cosa sarebbe uscito. Questi semi sono infine germogliati sul mio palco, perché appunto io alla termine della performance ma soffro a tutti questo germoglio, e poi c'è questo albero che è cresciuto dietro di me, che per me rappresenta un po' l'Europa, e tutti i frutti che sono appesi a questo albero sono un po' ai vari stati, le nostre anche varie diversità, i nostri essere europei in maniera diversa, ma comunque nella nostra diversità c'è una grande ricchezza e secondo me anche una grande possibilità di unione. E infatti questo brano parla proprio di abbattere i muri e di costruire punti. Hi guys, I'm traveling to Denmark. See you tomorrow at 2 p.m. Meeting point is Little Nermar in Copenhagen. There is no degree of separation, there is no degree of hesitation, there is no degree of space between us. Living love, we are stars aligned together, dancing through the sky, we are shining. Il tuo viaggio l'hai seguito con i social ed è stato bello perché tu proprio con i social hai fatto capire il tuo contatto con gli altri ragazzi europei. Mi ha fatto molto piacere, molta tenerezza. Poi hai suonato, hai fatto tante cose tue. Sì, sì, è stato un viaggio di completa condivisione con tutti, sia fisicamente con le persone che ho incontrato, sia poi a livello appunto tecnologico, perché ho condiviso su tutti i miei social tutte le esperienze. Ho proposto anche varie gigs, vari concertini per strada, dove ho anche proposto il mio brano Nessun Grado di Separazione in più versioni con più strumenti. E credo la cosa più emozionante sia stata quella di suonare davanti al muro di Berlino con il basso questo pezzo. E poi appunto l'ho condiviso su Facebook con tutti. Nessun Grado di Separazione, che qua è diventata No Degree of Separation. Non tutti sanno che all'Eurovision o allo Eurovision si può cantare nella propria lingua o in inglese. Tu invece hai fatto una scelta diversa, hai unito le due cose. Il fatto è che comunque io so quanto la lingua italiana sia amata in tutto il mondo e so che è proprio giusto preservarla e rispettarla, perché è veramente, anche a livello musicale c'è tanta storia dietro il nostro paese ed è bello condividerlo con tutta Europa, però ho anche pensato di prendere un ritornello della mia canzone e tradurlo, adattarlo proprio fedelmente in inglese, perché ha proprio un bel messaggio per questi tempi che stiamo vivendo in Europa, ed è bello che più persone possibili lo possano capire, apprezzare e sentire proprio. Che effetto ti ha fatto arrivare qua da Sanremo? Perché sembra un Sanremo amplificato, per chi non l'ha mai visto da vicino è... Sì, Sanremo per 42, insomma. Sì, esatto, un Sanremo per 42 anziché per 20, e soprattutto è... non lo so, è pazzesco, perché in realtà sono stata a Sanremo pochissimi mesi fa e già mi ritrovo comunque a rivivere un'esperienza settimanale di un festival musicale, però in questo caso non mi vedranno soltanto gli italiani e qualche persona nel mondo, mi vedranno milioni e milioni e milioni di persone. Poi tra l'altro quest'anno è stato amplificato anche agli Stati Uniti e alla Cina, quindi insomma lo vedrà veramente quasi tutto il mondo ed è un'emozione pazzesca. Però alla fine penso che quando sali sul palco devi regalarti al 100%, come se fossi davanti. Io a volte penso di avere davanti solo mio nonno che mi guarda quando guardo la telecamera. Ho visto con la camicia di tuo nonno. Sì, che me l'ha data perché voleva che la tenesse l'Eurovision. E che tu ne abbia comunque 200 milioni davanti o ne abbia uno, secondo me il lavoro dell'artista è proprio quello di dare un messaggio, di condividere una sorta di missione artistica con chi hai davanti, ed è quello che cercherò di fare. Devo chiederti degli animalini, perché hai dinosauri, ho sentito parlare di un pappagallo, ti sei portata, l'albero sul palco, ma anche gli animalini? Allora, i dinosauri sono in realtà degli amici che mi sono portata in viaggio, sono adesso in camera mia, stanno dormendo. E mentre per quanto riguarda gli animali sul palco, allora, le regole dell'Eurovision parlano che non sono permessi animali vivi sul palco, però ho pensato, ma perché tenere degli animali comunque finti sul palco? Anche se molti mi dicono keep the parrot, quindi tieni il pappagallo con te, noi abbiamo invece risposto con free the parrot, quindi liberiamo questo pappagallo, adesso è libero con noi e ce lo portiamo in giro per Stoccolma e gli facciamo visitare il luogo. Fantastico. Ultima cosa che volevo chiederti è, visto che questa cosa ti ha aperto tante porte, adesso, vabbè che ti vorrai riposare dopo questo viaggio perché sei in giro da un sacco di tempo, adesso con questa nuova esperienza che frontiere vorresti aprire? Allora, mi piacerebbe tanto fare musica all'estero, comunque portare il mio progetto in altri paesi, anche adattando i miei progetti nelle lingue dei paesi dove vorrei comunque fare musica. Mi piacerebbe molto ad esempio fare musica in Francia, in Spagna e anche in Svezia, perché mi piace molto la cultura qui, sia musicale che proprio di tutto. Sono una grande fan degli svedesi da sempre, E però adesso non lo so cosa succederà con questo Eurovision, io di sicuro continuerò a lavorare tutti i giorni come faccio e sono felice perché comunque ho solo 21 anni, ho veramente tanto tempo davanti a me per costruire e continuare a costruire questo progetto. Grazie mille Francesca. Grazie a voi, ciao. No, non c'è alcuna esitazione, finalmente dentro di me. There is no degree of separation, there is no degree. Ragazzi. Ragazzi a lui. Adesso. Ragazzo e ma poi signore. Sembra ci abbia 80 anni con i discorsi Marchesi che fa. Marchesi c'è la canzone, il signore di mezza età, c'ho 51 anni a luglio. Che dice appunto, Marcello Marchesi, vabbè. Che bella età, la mezza età. Che bel 51enne. Allora... Per me io chiuderei qui. Da Stoccolma, grazie. Siamo a posto. No, lo devo dire perché siamo alla radio e non si vede due bellissimi ragazzi. Meno male, descrivici, allora descrivici bene, grazie. Ma grazie. Non ho parole per Federico Russo e Flavio Insinna. Soprattutto non trovarle per me, perché per Federico degli aggettivi li troviamo. Due bellissimi. Laghi al posto degli occhi. Ma parliamo di questa sera perché come state? Come siete emozionati? Perché vi ascolteranno un sacco di italiani, avete la responsabilità, adesso vi metto l'ansia, la responsabilità di portare l'Eurovision per la prima volta su Rai 1. Però è molto più alta la responsabilità di chi deve cantare, ora non per scaricare tutto su Francesca Michelin, però insomma un pezzettino. Poi ce lo chiedi con gli autori che ci guardano qua sullo Spondrini, Ermanno, cioè dici pure avete la responsabilità, lo sapete. È vero, ce l'abbiamo, una responsabilità importante che accogliamo con grande orgoglio e soddisfazione, perché comunque è bello poter raccontare l'Eurovision agli italiani. È un evento che esiste da tanti anni e che negli ultimi anni sta crescendo fortunatamente. Grazie in popolarità. Grazie alla scorsa edizione, non solo il volo, ma già c'era Federico Russo che conduceva. Ha portato fortuna, diciamo, ecco, non grazie. Però è bello che comunque ci sia un interesse rinnovato e sempre più grande da parte degli italiani. Poi voglio dire, in un'Europa che fa fatica ad essere tale, insomma, cantare tutti insieme. Ieri eravamo qui un po' le 3:30 di notte io ho fatto, perché qua poi ci sono tutte le delegazioni, perché lui vedi io alle 10 il termometro pure e via, hanno spento il sonno di bellezza il sonno di vecchiezza, quella proprio quella degli anziani, c'era il ballo liscio per 80 quello io, invece qui Federico everybody dance, ma peccato che ballava il tango con una lettone, ho detto ma dove vai, sono andato a lettone io da solo con la borsa dell'acqua calda, giuro, no ma veramente. Ma è così, ma io non c'ho più l'età, lui ce l'ha veramente, non si può più far tardi. Ma che all'Eurovision non si può dire andare a lettone, perché non si può perché sembra è vero, ecco, no, io da solo ho detto nel lettone da solo, con la borsa calda. Che impressione vi ha fatto questa atmosfera in cui c'è veramente tutta l'Europa? No, lui è super europeo, è DJ, va poi a Milano. Io sto a Roma, chiuso lì, nel mio regno dorato di affari tuoi. Per me arrivare da Roma al Teatro delle Vittorie, l'Europa, tutta l'Europa, ma c'è tutto il mondo qua. Per me è stata una botta, sono a Luna Park. Ogni tanto mi ricorda Federico che dobbiamo lavorare, quindi ci prepariamo, ci stiamo preparando, però cioè, veramente c'è il piacere di essere in Europa con tante persone, mischiarsi, conoscersi, incontrarsi, poi avere lui come apripista, se vogliono fare tutti la foto con lui, quindi è come girare con un bronzo di Riace. Devo dire, io cerco invece le foto, perché anch'io vado a farmi le foto con tutti i tifosi, perché qua ci sono facce tinte, bandiere, gente, non so, nuda anche, per raccogliere voti. Balla e per lupi nudi. Balla c'è uno lupi che... Nudi. Il concorrente bielorusso, mi pare bielorusso, credo, bravo, bielorusso. Che è uscito in semifinale, che inizia la performance nudo cantando con un lupo, per dirti come. E siccome c'è un'assonanza di nome, il bielorusso, ma anche forse Federico Russo ballerà sabato notte, balla con i lupi. Sì, vai. Non ci vedrete fissi, perché saremo soprattutto una voce che racconterà, quindi pure nudi chi se ne frega, voglio dire. Ma soprattutto la voce di Francesca Michelin, che ricordiamolo stasera, canta per Sesta. Cioè, a parte metteteveli davanti a Rai 1 dalle 6, dalle 5. Dalla TV della gara, fate votare i parenti all'estero. Bravissima, ricordiamolo. Gli amici non all'estero, italiani, non possiamo votare per l'Italia, si rischia anche di non avere i soldi rimborsati, si sprecano dei soldi. E invece, bravissimi, italiani all'estero, anche chi ha tessere, cioè se schede vi fate straniere, una SIM card svedese, potete votare per l'Italia, no, veramente. Noi con le nostre SIM card svedesi. Votate Francesca Michelin, vota e fai votare Francesca Michelin. L'ultima domanda è. Uno show televisivo enorme con delle risorse pazzesche Che impressione vi fa da televisivi vedere una cosa del genere? È impressionante, è veramente impressionante. Noi abbiamo visto le prove, abbiamo visto in questi giorni anche la semifinale. È impressionante, ci sono delle telecamere appese in punti e in posti che non pensavo fosse neanche possibile. Delle braccia elettroniche, spiegamento di mezzi, chiaro. Spiegamento di mezzi incredibile. Due Spider Cam, una orizzontale e l'altra verticale. Una prova qualche sera fa, eravamo lì che scherzavamo, è partita l'Eurovisione. Si è spenta la luce, si sono accesi i colori, il pubblico ha cominciato a tifare la musica. Siamo rimasti così, anche se un po' sei del mestiere, però è sempre un'emozione. Questa proprio per me... unica. È vero. Lui è abituato. No, beh, abituato, DJ, ma lo show DJ, così. Capito, gli MTV però, Awards, cosa, tutto sì, lui. Sì, sì, però... Io sono andato alla Sagra della Ciliegia l'ultima volta, saluto anzi gli amici. No, è un livello davvero alto di spettacolo e noi poi abbiamo il privilegio di vederlo da una posizione... Sì. Fighissima. Sì, sì. Ragazzi, grazie. No, grazie. In bocca al lupo per stasera. Viva il lupo, quelli nudi della Bielorussia. Crepi il lupo. Viva, che crepi. Salutiamo gli animalisti. Viva il lupo. Vabbè, tanto è un oleogramma, è finto. Sì, nel senso che se n'è andato dalla competizione. E viva Francesca Michelin, perché a parte gli scherzi, adesso stiamo giocando. È giovanissima, è una bambina, ma già, voglio dire, un artista. Non si è montata la testa, precisissima. Poi con noi, voglio dire, si è prestata anche le nostre gag, alle mie. Federico è sempre una plomba straordinaria. Quindi ci abbiamo conosciuto, io di persona non la conoscevo, una ragazza straordinaria. Le auguriamo tutta la fortuna del mondo a partire da stasera. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Il sabato del villaggio. Che ci sta bene in una puntata dedicata ai giovani, peraltro un gruppo svedese, quello di Peter Björn e John. Abbiamo iniziato la nostra puntata con la Svezia, con l'Eurovision Song Contest e con Francesca Michelin in gara per l'Italia proprio in Svezia, quindi insomma il cerchio continua a chiudersi perfettamente nel segno appunto dei giovani, che sono un po' il tema di questo sabato del villaggio, e lo sono anche in fatto di alimentazione, cibo, gusto, le cose belle che possiamo mangiare, che sono una grande gioia della vita, e ovviamente ne parliamo con il nostro gastronauta. Buongiorno Davide Paolini. Buongiorno. Sì, in questo momento nel cibo c'è veramente una grande ventata di gioventù, perché sia stanno nascendo nuovi artigiani che stanno riprendendo vecchi mestieri, questi giovani che sono oggi la ribalta, ci sono giovani chef, ci sono giovani agricoltori. In questo momento a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, in una ex filanda, ci sono un numero di importanti di artigiani, e tra questi tanti giovani che espongono i loro prodotti da tutta Italia. Io ve ne racconto un paio, ad esempio Acqua Pazza Gourmet di Cetara, Gennaro Marciante, un giovane che prima faceva il ristoratore e poi ha ritrovato un vecchio prodotto e lo ha riproposto, che è la colatura di alici, che oggi veramente sta diventando un importante condimento in giro per l'Italia, non solo a Cetara è nella costiera, quindi nella campagna, ma un po' in tutta Italia. E poi ancora, cioè dalla costiera passiamo al Veneto, Orizzonti del Pescatore, si chiama una società, diciamo con molta fantasia, di un giovane che si chiama Andrea Rossi, che assieme ad altri giovani ha costituito, dopo aver fatto il pescivendolo, dopo aver trattato il pesce in tante maniere, ha cominciato a servire i ristoranti con dei piatti di pesce preparati ad hoc. Ma la cosa divertente è i nomi che ha messo questo personaggio, perché Orizzonti del Pescatore è il nome della società, le acqualune sono una linea di pesci marinati in una notte, cioè il pesce arriva, diciamo, di giorno, viene nella notte, viene marinato e poi viene consegnato. Quindi freschissimo. Freschissimo, ma devo dire che è veramente un servizio interessante. Io ho assaggiato alcuni piatti di questa linea che sono veramente squisiti. Ci sono ad esempio molte tartare che vengono fatte, quindi qui c'è la capacità di conoscere il pesce e poi di lavorarlo nella notte, quindi è freschissimo. E poi ancora un altro personaggio che si chiama Fabio Pellizzari, la società si chiama Bagis ed è a Loria in provincia di Treviso. Ebbene, questo ragazzo lavorava nella gastronomia di famiglia, che a un certo punto però ha detto no, io amo lavorare con le mani, soprattutto amo la pasta madre, e quindi piano piano si è creato una propria pasticceria dopo aver fatto dei corsi appunto da pasticcere in giro per l'Italia, e ha cominciato a produrre dei panettoni, dei pandoro e tutta una linea di paste veramente molto, molto buone, diciamo abbastanza anche innovative nella presentazione. Quindi i giovani che riscoprono anche i prodotti di grande tradizione, ma anche del passato. Anche del passato, diciamo che c'è una bella storia di Alice Cerrutti. Questa lavorava alla Ferrero, la famiglia aveva un'azienda agricola che aveva un po' così messo da parte. Ebbene, lei invece si era inventata un po' tutto e ha modernato questa azienda agricola che si chiama Cascina Oschiena, e per la produzione del riso. Quindi è tornata, ha rimesso in piedi questa parte dell'azienda che era stata abbandonata e ha creato appunto una riseria, la produzione di riso, anche questo è abbastanza all'avanguardia. Sempre di giovani, addirittura tra i 25 e i 29 anni, e sono un gruppo di laureati in agraria, i quali hanno voluto portare un qualcosa di nuovo nell'agricoltura, riproponendo un'agricoltura organica e rigenerativa. L'azienda si chiama Agrinativa ed è di Castelfidardo. Cosa fanno? Ripropongono delle vecchie piante antiche e delle piante mondiali sconosciute in Italia, e quindi vedono appunto come procede questo, diciamo, come procede questa coltivazione, e se diciamo queste piante antiche danno dei risultati, o queste piante che importano danno dei risultati, continuano nella produzione. Piante antiche, quindi, ad esempio, cioè cose che non si coltivano più, che possono essere ancora che possono tornare a darci, guarda, qualcosa di buono? Te ne do una. Loro hanno ricominciato a riprodurre il tomatillo, è un pomodoro giallo che era stato abbandonato, oppure stanno riproponendo come piante mondiali l'ocra, e quindi diciamo portano delle innovazioni anche sui metodi di coltivazione, quindi credo anche questa sia una delle operazioni all'avanguardia. E poi te ne do uno al sud, anche questo molto ma molto interessante. Si chiama Vincenzo Tiri, e negli ultimi anni è balzato all'avanguardia, pur essendo di Acerenza in Basilicata, giudicato da molti il suo panettone come il migliore d'Italia. Ah, addirittura. Quindi, dalla Basilicata, sì. Per battere i milanesi in fatto di panettone? Esattamente, questo è ormai è diventato notissimo, e è di una famiglia di fornai di 3 generazioni. Però lui ha cominciato ad andare a fare dei corsi in giro per l'Italia, soprattutto al nord, dai maestri pasticceri del nord, appunto, imparare la lievitazione. Poi ha talmente imparato bene che addirittura ora, in un certo senso, non è che li sta superando, però diciamo nei contest, quelli al buio, come si chiamano, quindi non si sa il nome del produttore, sta veramente vincendo un po' ovunque. Assaggiatori che bendati decidono qual è, ad esempio, il panettone più buono? Esattamente, no, diciamo che il panettone viene bendato. il panettone caso. Viene bendato, fantastico. Nel vino si benda, ma qui invece il panettone, il panettone che viene bendato. Fantastico. Ma guarda, se vogliamo rimanere al sud, c'è una, diciamo, un gruppo di giovani emergenti chef veramente di una generazione interessante, e arrivano tutti dal sud e soprattutto sono donne, questo è il fatto interessante. Una si chiama Martina Caruso e a Salina, e diciamo all'interno di un albergo molto bello, considerato forse l'hotel più interessante dell'isola, che è il Signum, quindi è un hotel, diciamo, della famiglia. Però questa ragazza è riuscita veramente a emergere e ha una stella Michelin. Beh, è fantastico. Sempre al sud, un'altra giovanissima calabrese, si chiama Caterina Ceraudo, il ristorante si chiama Dattilo, però questo ristorante è all'interno di un agriturismo e di un'azienda agricola, che è appunto l'azienda agricola Ceraudo del padre, a Strongoli, in provincia di Crotone. Questa azienda è interamente biologica e addirittura ha delle arance, mandarini tardivi veramente, veramente strepitosi. Piano piano questa ragazza è enologa addirittura, è passata quindi dai campi e dalla cantina, è passata ad occuparsi direttamente della cucina di questo agriturismo, e anche lei è riuscita a prendere una stella. Beh, giovane, donna calabrese, fantastica, c'è un sacco di tifo, sì, per lei, sì, certo. Eh sì, ma ce n'è uno anche molto vicino a Milano, perché ora andiamo anche vicino a Milano, all'Albereta, Erbusco, dove era il grande Gualtiero Marchesi, ora c'è uno chef giovane che si chiama Pugliese, Fabio Abbatista, il ristorante è Leone Felice, e anche lui nel giro di pochi mesi, non dico che è riuscito a far dimenticare Gualtiero Marchesi, fa una cucina completamente diversa, ma è balzato alla ribalta ed è anche lui lanciato sicuramente nel futuro. E poi ti racconto un'ultima storia, perché è veramente intrigante. Racconta. Di un giovane che ha fatto una tesi di laurea, si chiama Eugenio Pellicciari ed è di Modena, sulla coltivazione del luppolo. Bene, la coltivazione del luppolo per la birra in Italia non esiste, non esisteva, e questo ragazzo attraverso gli studi è riuscito a scoprire che ci sono alcune aree avocate appunto in provincia di Modena, e sta coltivando il luppolo con grande successo, e credo che presto, grazie a lui, si potrà avere una birra tutta italiana, perché in questo momento una birra tutta italiana con luppolo italiano non c'è e non esiste. E quindi grazie a questa storia, quindi è un invito a tutti i giovani che stanno studiando di curare anche molto bene, diciamo, l'ultima fase del loro studio, perché potrebbe diventare anche un lavoro. Bellissimo, che ventata di entusiasmo mi hai messo, anche mi sembra che si stiano aprendo veramente delle porte molto molto belle anche per i giovani che vogliono iniziare una nuova carriera in questo campo. Fantastico, grazie Davide per tutte queste ispirazioni e anche per tutti questi nomi che non vedo l'ora di scoprire in prima persona. Grazie Davide Paolini. Davide, ci ritroviamo il prossimo sabato ancora col prossimo sabato del sabato. Villaggio. Certo, a presto. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con questa puntata del Sabato del Villaggio che stiamo dedicando ai giovani. E io così durante la settimana lancio così il tema che mi viene un po' in mente, così un po' collegando gli ospiti ai quali ho già pensato, oppure con delle idee che avevo un po' nell'aria da tempo. Così lancio il tema a tutti i colleghi che si alternano al mio fianco. Però questa volta ho detto giovane, la riscossa nelle tecnologie non era mica facile. Cosa avrà architettato Enrico Pagliarini? Ciao Enrico. Lo diciamo tra un attimo. Mi viene in mente, a proposito di giovani, che recentemente sono stato ospite a Radio Immaginare, che è una radio di giovani, proprio fatta da ragazzini molto giovani. E la prima cosa che mi hanno detto è: ma tu ti occupi di tecnologia e sei vecchio? No! E io non sono mica tanto vecchio però, allora mi sono un po' preoccupato. Perché chissà, ma loro quanti anni avevano? Vabbè, no, sono dei quindicenni, sono proprio giovani, questi sono proprio giovani, sì, molto. Vabbè. E tu cosa hai risposto? E io ho detto che sono giovane, e ho contestato questa affermazione. Esattamente. Vabbè, secondo me quelli sopra i 21 per loro sono già vecchi, dai. Esatto, a proposito di giovani, avremmo potuto parlare di come i giovani usano tutti gli strumenti di cui parliamo spesso anche al Sabato del Villaggio, nel nostro sabato pomeriggio di Radio 24, però avremmo dovuto chiamare degli esperti di giovani che avrebbero fatto dei discorsi anche pedagogici sull'uso dei social network. No, una cosa che mi piace molto è andare a scoprire le startup. C'è un movimento di startup in Italia molto interessante, non è forse un movimento grande e soprattutto ben finanziato come in altri paesi, però le cose stanno cambiando già da qualche tempo e devo dire che stanno aumentando sia in quantità sia in qualità e anche in capacità di attrarre finanziamenti un po' da tutta Europa e naturalmente anche dall'Italia. E allora quando tu mi hai detto che ti saresti occupato di questo tema, ho detto: ah, ma chiamiamo questo ragazzo che ho visto, che mi ha impressionato perché presenta una storia bella. Cioè un giovane che si è inventato qualcosa di nuovo, quindi una startup, sì. Bello, cioè, perché poi si parla sempre, sai cosa c'è, appunto tu dicevi il fatto che tanti parlano di come i giovani usino la tecnologia e i social, invece si può parlare anche di come i ragazzi creano lavoro, creano idee, infatti, dai, mi piace infatti devo punto dire che di il vista. Movimento delle startup è un buon esempio anche della dinamicità di molti giovani. Non parliamo di quindicenni, diciamo che molti di questi sono o universitari o post-universitari, quindi necessariamente non parliamo di quindicenni. Claudio Perlini, benvenuto Claudio. Buon pomeriggio, grazie. Ciao Claudio, oh che bello, come mai abbiamo chiamato Claudio? Allora, Claudio non ha 15 anni, non ha 20 anni, ne ha un pelo di più, però diciamo nella comunità degli start-upper sei uno dei giovani. Sì, rappresenta ancora quella parte giovane della comunità start-up. Allora, Claudio, sebbene non sia il più giovane. Sì, sì, certo, però tu ti sei inventato una cosa che effettivamente mi ha anche impressionato, rientra in quella piccola rivoluzione che stiamo vedendo soprattutto nelle grandi città e a Milano in modo particolare, che è la consegna a domicilio, una cosa vecchissima che però grazie agli smartphone sta cambiando moltissimo e stanno nascendo un sacco di startup che fanno la consegna a domicilio di qualsiasi cosa. Di tante cose, di tantissime cose. Allora, la tua giovane azienda, che è ancora molto piccola, giusto Claudio? Sì, sì, siamo ancora in una fase molto molto iniziale di questo progetto. Quindi è un'azienda giovane, si chiama Sushi Jet. Allora dovete sapere che, questo lo diciamo per chi sta fuori Milano, a Milano c'è un po' la mania, un po' esagerata però, scindiamo il business dai gusti personali. Sì. Allora, Sushi Jet, cioè, dicevo, c'è un po' la mania del cibo giapponese. Io adoro i giapponesi, però non è che mangio tutti i giorni il sushi, ma invece a Milano ci sono tanto, un sacco di persone a cui piace, anche perché è molto trasportabile, essendo crudo il sushi, si trasporta non molto arriva, bene. Non arriva freddo, cioè arriva freddo, ma perché è già freddo, esatto. Sushi Jet, che cos'è Claudio? Ma Sushi Jet è un servizio che consegna sushi a domicilio entro 10 minuti ed è stato esattamente come giustamente spiegavi, è partito proprio dalle esigenze di questa città. Milano è la città perfetta per questo prodotto. Le persone mangiano sushi non tanto perché è di moda, ma perché ormai è diventata una loro abitudine alimentare e sono sempre di fretta. È un servizio come questo lo puoi trovare a San Francisco, a Londra, in Italia ancora non c'era. sono il primo che riesce a fare un servizio di delivery di cibo in 10 minuti qui in Italia. Tu non sei milanese però, Claudio? No, non sono milanese. Mi sono trasferito qua appunto perché è il mercato perfetto per questo tipo di azienda. Ma sbaglio o quando ho visto la tua presentazione la promessa era di farlo in 7 minuti? Ma attualmente stiamo consegnando in 7 minuti e 20, diamo 10 minuti agli utenti di tempo per scegliere in quale fascia oraria lo vogliono ricevere e poi in 7 minuti noi riusciamo a consegnarlo. Si ordina via computer o ormai l'ordine è fatto via smartphone? Ma la maggior parte sono ancora via computer da dispositivi desktop perché stai servendo una fetta di clienti che comunque in pausa pranzo sta lavorando. Eh, e quindi... sì, perché sono lì già alla scrivania e quindi... Esattamente. Sì. Però è proprio un progetto che è orientato al mondo mobile, che parte proprio dalle esigenze di mobilità e per quegli utenti che si spostano hanno bisogno di un servizio rapido, per cui gli utenti che si collegano da mobile hanno un'esperienza molto semplificata di acquisto. Sì, ci dici qualcosa, soprattutto per chi non abita a Milano e per chi non vive la città di Milano, su questo fenomeno della consegna a domicilio che... quando si va a seguire gli eventi delle start-up o dei finanziatori si chiama delivery all'inglese, però è la consegna a domicilio, cioè è molto semplice, no? Sì, è la classica vecchia consegna a domicilio. Probabilmente la maggior parte degli ascoltatori saranno abituati alla tipica consegna a domicilio della pizza, che qui da noi è sempre stato un servizio in uso abbastanza frequente. Ad oggi su Milano sono presenti parecchie realtà che consegnano diverse tipologie di prodotti alimentari perché appunto c'è un'offerta molto ampia, c'è la necessità di avere un prodotto consegnato a domicilio e non per forza consumato al ristorante, e è proprio nelle abitudini delle persone che vivono a Milano di avere questi tipi di servizi. E come hai deciso di farti conoscere? Come vi state facendo conoscere alla clientela? Ma con la classica buona vecchia scuola del volantinaggio fuori dalle metropolitane e nei luoghi trafficati della città. Abbiamo una serie di promoter che vanno in giro per la città e presentano il servizio alle persone. E quello è uno dei sistemi più efficaci, nonostante il digital marketing effettivamente dia una mano, come si diceva inizio trasmissione. Adesso cosa pensi? Solo a espandere la tua startup ovviamente in altri quartieri di Milano e poi magari oltre, o già stai così incubando, come si suol dire, nuove idee? No, le idee non mancano mai. Anche vedi che meraviglia. Sì, però non è che volete consegnare la pizza. No, la pizza purtroppo no. La pizza non è nelle nostre tipologie di prodotti, però ci sono tutta una serie di prodotti che possono essere consegnati. Considera che chi mangia fuori, chi lavora in ufficio mangia fuori almeno 4-5 volte alla settimana in pausa pranzo. Sì, quindi c'è un grande business. La domanda lì è quando non mangiano da me, da chi mangiano, oppure cosa posso dargli da mangiare. Certo. Quindi diciamo che c'è una competenza di marketing, una competenza tecnologica. Che... Vabbè, no, devono sapere tutti questi. Ci sono delle competenze che si incrociano. Sì. Sono una serie di competenze, ma non sono competenze preacquisite. Io ho delle precedenti esperienze, ma in realtà tutto quello che sto facendo lo imparo man mano che lo faccio. Un learn by doing, continui a fare cose diverse, a confrontarti con persone più brave di te e man mano impari cose nuove, cose che non sapevi. Beh, hai capito sto ragazzo, bravissimo Claudio. Io sono affascinata e ammirata da questi ragazzi che hanno delle grandi idee. Sì, sono bravi. Sushi Jet. Consegnate con bicicletta o motorino? No, abbiamo degli scooter. La mia visione in un futuro sarebbe di portare tutta la flotta sull'elettrico. Con calma arriveremo anche a fare quel passaggio lì. Grande. Speriamo che arrivi presto nella nostra zona, così Paglia ti faccio mangiare sushi tutti i giorni. Ma insomma, magari non tutti i giorni, però. grazie Claudio. Bene. Per essere stato con noi. Sushi Jet, grazie. Mi piace molto. Ciao Claudio. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie Enrico, bella, mi è piaciuta questa idea di sentire. Intanto chiamiamo qualche startup. Chiamiamoli, vedi che c'hanno già le idee, le cose. No, ce ne sono molte, però che mi colpiscano non ce ne sono tantissime. Allora, il prossimo che ti colpisce me lo dici alcune e lo chiamiamo. Le devo portare a 2024. Vabbè, allora dacci anche però tengo alcune chicche anche per il sabato di Villaggio. Dacci l'appuntamento con 2024. Sì, via podcast. Ah, vedi, ieri sera alle 22, ma se uno va al cinema al venerdì sera va via, poi va via podcast. Anche domani alle 13:30. Ecco, vedi, ciao, aspettavo che dicessi anche a domenica. Scappo ciao via. Enrico. Ciao. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il sabato del villaggio. Hai un sogno che late dentro di te, non ti deja dormire. Se sei lì, respira, se sigue ahí. Vive en ti, vive en ti. Nada potrà impedir che te liberi al fin. Una llama en tus ojos renace, todo el mundo la verá cuando arde. Una voz dice cree en lo que hace. No pares, no pares. E in questo sabato del villaggio che stiamo dedicando un po' ai giovani, alla riscossa, non può mancare lei, perché è il suo fine settimana al cinema. Poi parleremo con Franco D'Assisi di tutte le novità in sala, ma vogliamo chiudere la prima ora di questo sabato del villaggio con lei. C'era Violetta, ci sarà ancora Violetta, non sappiamo che fine fa Violetta. Se ci sono ragazzi o genitori di ragazze, anzi direi in particolare ragazze all'ascolto, sanno già di chi stiamo parlando, ma noi vogliamo capire che cosa succede al cinema questo fine settimana con questo grandissimo personaggio che dalla TV è passato al cinema. Per capirne di più abbiamo una super esperta di tutto quello che riguarda il mondo dei ragazzi e delle ragazze. Io la chiamo sempre al sabato del villaggio anche perché è la mia amica alla quale io chiedo i chiarimenti personalmente quando c'è uno di questi fenomeni che io non conosco. Silvia Gianatti, ciao Silvia! Ciao, buongiorno a tutti. Allora Silvia, è vero, quando c'è qualcuno o uno youtuber nuovo, un fenomeno nuovo dei ragazzi e delle ragazze, mando subito un WhatsApp a Silvia. Silvia, chi è questo? E lei mi spiega. Allora, è vero. Confermo. È vero. Facciamo un passo indietro, ne avevamo già parlato. Personaggio di una serie televisiva famosissima, Violetta, durata un po' di stagioni, successo in tutto il mondo, tre stagioni. Esatto. Successo in tutto il mondo, anche in Italia. Galassia Disney. Assolutamente sì. Ok. E finita la terza stagione, ci hanno lasciato con un'ultima puntata proprio di chiara chiusura del siamo cresciuti, ce ne andiamo, e arriva il film, perché non potevano lasciarci lì senza più Violetta. E la Disney ha fatto questa pensata geniale di far diventare Violetta Martina. Martina è il nome dell'attrice che interpreta Violetta. E quindi questo fine settimana andremo tutti al cinema a vedere Tini, la nuova vita di Violetta, in modo da unire Violetta Martina e non lasciare le bimbe senza la loro Beniamina, che tra l'altro ha fatto anche un disco, per cui siamo già sul pezzo anche con la colonna sonora. Esatto, le bambine le sanno già tutte. Esatto. E lo spagnolo non lo abbandoniamo, perché comunque ormai abbiamo imparato a cantare in spagnolo, continuiamo a farlo. Fantastico, bambine e bambini, perché ci sono anche ormai maschietti che pazzi. Esatto, anche, allora, l'altro. L'attrice che nella serie era una ragazzina che cantava, che si innamorava, che cosa faceva Violetta nella serie? Esattamente, cantava, sognava di, diciamo, viveva di musica, entrava in questa scuola di musica in cui conosceva poi tutti i protagonisti della serie, si innamorava prima di uno, poi di un altro, per finire poi col suo grande amore Leon, che ritroviamo anche nel film, e quindi vivevamo queste avventure di ragazzi di 16-17 anni all'interno della scuola di talenti, diciamo. Però sai cosa mi viene in mente? Quando c'è stato Sex and the City, che è finito, anche noi ce l'abbiamo avuto il film, noi fan di Sex and the City, quindi mi sembra un coronamento perfetto questo film per le ragazze. Però lei, mi dicevi, ha smesso i panni di Violetta, cioè Martina, l'attrice, smette quindi definitivamente i panni di Violetta. Esattamente, io non credo che nessuno abbia mai riuscito a fare una cosa così perfetta dal punto di vista di storytelling e di marketing, quindi esatto, un applauso. Anche perché bisogna comprare tutto nuovo, cioè se ci sarà tutto di Tini, ma certo, ma certo. Io ho il dubbio perché non so se ci sarà tutto nuovo della nuova serie che sta per arrivare, per cui allora poi appena cominciate. Allora andiamo per ordine. Intanto ti chiedo, le fan di Violetta sono cresciute con lei, l'attrice è diventata maggiorenne? L'attrice è diventata maggiorenne, infatti la seguiranno anche il nuovo disco di Martina, che si chiama Tini, quindi comunque è sempre lì. È proprio il proseguimento naturale per le fan piccole che ora passano alla musica con CD veri, quindi non è più il CD delle canzoni di Violetta della serie TV, ma sono le canzoni di Martina, quindi crescono con lei e l'intenzione è proprio di farla seguire per sempre. E per le piccole adesso c'è già ovviamente qualcos'altro? Le piccole, appunto, è appena cominciato Soy Luna e l'idea è sempre quella di portare intanto la stessa produzione Disney Europa con resto del mondo, con Sud America, quindi sono andati di nuovo in Argentina, hanno messo di nuovo la musica, hanno messo di nuovo una protagonista dall'aria a quel sapone e hanno aggiunto però un elemento che secondo me anche qui dimostra genialità e andremo a vedere come va a finire, ma dovrebbe funzionare, che hanno inserito lo sport. Ah, quindi non sono più musica ma sport, però c'è sempre l'aspirazione. Cantano sì. E c'è comunque musica, ma lo fanno sui pattini, per cui tutte le canzoni che vedremo, tutto quello che vedremo di spettacolo sarà fatto sui pattini, dove la protagonista usa i pattini anche per servire tra i tavoli, diciamo, nel suo lavoretto, per cui arrivano i pattini, arriva tanto stare all'aria aperta, che è proprio uno dei messaggi nuovi che vogliono lanciare, cioè ragazzi, bambini, uscite, andate anche all'aperto perché si sta bene, fate sport. E questo elemento in Violetta mancava completamente, lì era proprio tutto musica, spettacolo e diventare famosi. E quindi io temo che appunto la mia preoccupazione è di dover regalare pattini a Natale. Poi... Ah, pattini di Soy Luna a tutti! Esatto. Questo sarà il leitmotiv, adesso vedremo tutti i ragazzini pattinare e adesso capiamo perché. Quattro ruote tra l'altro, che è l'altro secondo no, me... No, che meraviglia, esatto, si tornano... Esatto, va a prendere noi mamme, che abbiamo le bimbe a quel punto in target perfetto, quelle nate con i pattini su quattro ruote che i rollerblade non li hanno tanto apprezzati. Io, ad esempio. Serie, esatto, anch'io. E quindi ora tornano le quattro ruote e saremo di nuovo tutti a pattinare su quattro ruote. Ma subito comprerò i pattini di Soy Luna perché non vedo l'ora di tornare a pattinare. Tra l'altro lei, vedo l'attrice Luna, Carol Sevilla, classe 1999, messicana, ma il protagonista è italiano. Il protagonista è Ruggero Pasquarelli, che è il nostro amato protagonista anche di Violetta, quindi anche qui c'è un portare il pubblico, insomma, fan di una serie, portarli anche sull'altra, ed è sì il nostro protagonista italiano. In Violetta c'era anche Lodovico Acumello, che ora l'abbiamo vista prendere nuovi voli tra Italia's Got Talent e quant'altro, e invece lui è stato scelto proprio come protagonista principale di questa nuova serie, e se ne sta laggiù in Argentina, dice ormai fa fatica a parlare in italiano ormai quando lo si incontra, è entusiasta, ha imparato, raccontava che hanno imparato a pattinare, nessuno di loro sapeva pattinare, sono stati 7 mesi di prove intense. Ah, beh, certo. Perché... Ognuno di loro è dovuto diventare quasi professionista. Ruggero Pasquarelli, la nuova, esatto. Sarà poi una star ovviamente mondiale. Tra l'altro, per chiudere il cerchio, abbiamo iniziato questa puntata con Francesca Michelin, che questa sera rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest. Nella prossima ora andremo a scoprire che fine hanno fatto molti dei ragazzi dei talent che sono usciti magari da X Factor, come Francesca Michelin. Lo stesso Ruggero è passato per X Factor, non ci posso credere. Assolutamente sì, è stato lui, è iniziato così. E da lì poi Disney l'ha notato, l'ha chiamato e poi da lì è passato Violetta. Beh, una grande star mondiale appunto nel mondo dei ragazzi. Grazie, grazie Silvia, che come sempre mi spieghi tutto. Silvia Gianatti, quando avete bisogno di sapere qualcosa sul mondo dei ragazzi, voi scrivete a me, che poi io come sempre mando il WhatsApp a Silvia, lei sa tutto. Grazie, grazie Silvia, a presto, grazie mille. Grazie, ciao. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio ancora con Sabato del Villaggio. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, ce Alessandro, l'ha con te. Dai, ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino. Due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Il sabato del villaggio. Buongiorno, rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora, sempre con i giovani alla riscossa, come filo conduttore del nostro sabato di oggi. Abbiamo dato il via alla nostra puntata con un'intervista nel backstage della Globen Arena di Stoccolma, dove questa sera ci sarà la finale dello Eurovision Song Contest. Abbiamo avuto con noi Francesca Michielin, arrivata a rappresentare l'Italia al festival musicale che riunisce l'Europa, partendo da X Factor. Ma cosa stanno facendo i giovani usciti dagli ultimi talent show? Lo scopriremo insieme. Nel nostro appuntamento con Maria Luisa Pezzali, un compleanno importante, proprio all'insegna dei ragazzi, anzi proprio dei bambini, ma di tutte le età però. Il libro del momento è anche in questo caso Giovani alla riscossa, nello spazio di Alessandra Tedesco, ma partiamo subito con le novità del fine settimana al cinema, con i consigli che ci ha preparato il nostro Franco D'Assisti. Io mi chiamo Pericle Scalzone, per di mestiere faccio il culo alla gente. Ma che l'hai ammazzata? Faccio come un altro guai. Quella è la sorella di un quartiere e noi la dovevamo proteggere, capito? Adesso sai che può fare, scompare, levati di mezzo. No Luigi, ma io che dovevo fare? Tu non dovevi proprio nascere. E quello che avete sentito è un trailer tratto dal film Pericle il Nero. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori, questo è il film con il quale vogliamo cominciare la nostra carrellata in previsione della Rosa Purpura in onda alle 18, perché è un film che arriva dal Festival di Cannes, esattamente dalla sezione Ansar Ferregard, nella quale è stato scelto il film con Riccardo Scamarcio protagonista. Un film particolare, veramente nero come il suo titolo, la storia di Pericle Scalzone, uno che non è un molto di buono, anzi è uno che picchia le persone per mano di un boss camorrista emigrato in Belgio. Durante una sua spedizione però Pericle commette un errore che di fatto lo condannerà a morte. Un film molto anomalo per il cinema italiano, che proprio per questo è piaciuto al Festival di Cannes, la sezione Certain Regard che l'ha selezionato. Avremo l'intervista con Riccardo Scamarcio alla Rosa Purpura, un'intervista esclusiva realizzata dalla nostra Chiara Pizzimenti, ma questo mi dà anche il via per parlare del Festival di Cannes. Ci collegheremo con la Croisette, con Giulio San Giorgio di Fin TV, per sentire quali sono gli umori dopo questi primissimi giorni di festival e soprattutto quali sono le prospettive per la seconda settimana che assegnerà poi sabato prossimo la Palma d'Oro. Mi chiamo Lee Gates, benvenuti a Money Monster. Chi non rischia nulla, nulla guadagna. È meglio vendere? È meglio scaricare? Fuori le palle, fate gli uomini! Chi è quel tipo sulla 2? Chi si vuole ragnare? Sentiamo. Chi è? Qualcuno lo conosce? È una questione sindacale? Interrompi! Voglio le telecamere accese! Ti accendi le telecamere, parti! Rimandaci in diretta! Che faccio? Forza, accendi! Torniamo in onda! Sei venuto qui in cerca di risposte e meriti delle risposte. Sicuramente il film di maggiore richiamo popolare per questa settimana è il thriller finanziario diretto da Jodie Foster, Money Monster, l'altra faccia del denaro. Vuoi per il cast altisonante con George Clooney e Julia Roberts protagonisti assoluti, vuoi anche per un tema, quello insomma delle frodi finanziarie perpetrate in questo caso dal amministratore delegato di un importante potente fondo di investimento. In altri casi la cronaca italiana ci ha raccontato recentemente altre situazioni di persone che sono rimaste nel guado, tanto per usare un eufemismo, con le loro banche. Insomma, un tema molto caldo nella società, lo è molto nella società americana, che con il suo cinema ci ha saputo raccontare innanzitutto l'origine della crisi del 2008-2009, poi le conseguenze e adesso le conseguenze estreme, potremmo dire, perché questo film è la storia di un conduttore televisivo di un programma finanziario di grande successo, George Clooney, che a un certo punto si trova durante la sua trasmissione la vittima di un giro finanziario piuttosto disperata, piuttosto pericolosa, in diretta nel suo studio. E chiaramente il film diventa un action thriller appunto a sfondo finanziario. Uno dei film sicuramente più interessanti di questa settimana, con, come dicevo, una tematica che è ancora ben appiccicata alla pelle, con due grandi prove da parte di George Clooney, soprattutto nella prima parte, quella che si svolge nello studio televisivo, di una Julia Roberts molto molto misurata. Da quando Oscar Wilde scrisse quest'opera, tante sono state le interpretazioni. Questa è una di esse. Perché di nuovo Salome? L'hai messa in scena già due volte. Quante produzioni hai fatto? Mi è sembrato di trovare un amico. Qualcuno che volevo conoscere. Qualcuno che è stato profetico, perché in questa tragedia Oscar Wilde è come se conoscesse il suo destino. E quella che abbiamo sentito invece è la clip di un film diretto da Al Pacino. È un film che arriva nei cinema italiani dopo parecchi anni, perché fu presentato in anteprima a Venezia nel 2011, pensate. Il film si intitola Wild Salomé ed è una sorta di reinterpretazione della storia di Oscar Wilde ai tempi nostri, con un istrione regista teatrale che porta in scena questa Salomè con una giovanissima allora Jessica Chastain, che si rivelò grazie alla famosa Danza dei Sette Veli in questo film. Dicevo, è strano il fatto che questo film arrivi nelle sale cinque sei anni dopo, ma non è del tutto incomprensibile, perché il film è stato praticamente un po' ribaltato dallo stesso Al Pacino, che ne è regista, con un montatore italiano che ha fatto un grande lavoro. Sono stati sottratti 6 minuti, sono stati rimixati alcune parti e adesso il film ha sicuramente una fluidità maggiore. È un film che merita assolutamente di essere visto, forse più oggi di allora, perché oggi ci racconta di un percorso di Al Pacino che è quello del raffronto con il teatro filmato. Lo aveva fatto anche con Looking for Richard, qualcuno di voi lo ricorderà. E poi ci riconsegna un'attrice alla sua prima prova importante, Jessica Chastain. Oggi noi la guardiamo con gli occhi della diva di Hollywood che è diventata. Farà veramente piacere vederla in questa grande prestazione. Grazie a tutti, allora appuntamento alle 18 con La Rosa Purpura qui su Radio 24. Ci sentiamo più tardi. Il sabato del villaggio. Mi chiamo Greta Menchi e vorrei anche io fare un libro. Come dice un libro? L'hanno fatto tutti. L'ha fatto Antonello, l'ha fatto Albertino, l'ha fatto la signora dei funghi, i porcini. Lei lo sapeva che esistono così tanti tipi di funghi? No, infatti ha fatto un libro. Poi pure mia madre ha fatto un libro. Lo voglio fare pure io un libro. Perché io no? Cara, ma non è giusto, non devi paragonarti agli altri. Mai! Eccola là, come a scuola. Io non è che mi paragono agli altri, è che è ingiustizia! Signora, che libro vorrebbe fare? Ok, ok, io ho un sacco di cose interessanti da raccontare. Tipo, una volta all'età di 12 anni ho fatto partorire un delfino. O era una balena. No, era Piazza di Libertà. E in questa puntata del Sabato del Villaggio dedicata ai giovani alla riscossa non possiamo non parlare di youtuber, di star, di ragazzi che sono diventati famosissimi soprattutto tra i loro coetanei perché girano dei video su YouTube. Ma questo è lo spazio dei libri, quindi qualcosa mi dice che questa youtuber, che è Greta Menchi, ha scritto un libro? Lo chiediamo subito alla nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, sì, effettivamente Greta Menchi ha scritto un libro ed è uno dei libri di cui si sta parlando di più in queste ultime settimane, anche perché è entrato in classifica, insomma, e si nota subito quando un libro del genere entra in classifica. Il libro si intitola Il mio libro sbagliato, quindi già qui si capisce che c'è una grande vena di ironia, ed è pubblicato da Fabri Editori e, come dicevi tu, l'ha scritto Greta Menchi, che è una blogger. E non è che sto sbagliando io perché sono raffreddata, si dice proprio così, blogger con la V di Verona, che sarebbe una videoblogger, appunto, ventenne romana. Allora, quando una ragazza giovane, un ragazzo giovane che viene da un altro mondo, che può essere quello della rete o quello della musica, ad esempio, scala le classifiche con un libro, subito ci sono un po' di polemiche. Beh, subito ci sono polemiche perché si dice, insomma, che sono libretti di serie B, C, Z, insomma, vedete un po' voi. Diciamo che in questo libricino, chiaramente, questo libricino riflette un po' lo stile di questa Greta Menchi su YouTube. Io ho visto sia, appunto, i video sul suo canale YouTube, che pensa avviene seguito, cioè gli iscritti al suo canale YouTube sono 750.000 persone, quindi insomma sì, non è un fenomeno da sottovalutare. Ha 1 milione di follower su Instagram e 300.000 su Twitter, quindi insomma si può fare anche gli snob, però queste cose sono reali. E in questo libro lei riflette un po' quello che sono i suoi videoblogger, cioè si racconta la sua vita sentimentale, fa delle domande tipo che cosa fanno veramente le ragazze di notte, quali sono le varie tipologie di fidanzati, oppure i tipi di sogni, il fidanzato ideale. Naturalmente è un libro divertente, ironico, colorato, ci sono foto, vignette, disegni, ci sono le sue famose liste, insomma è sicuramente un simbolo dei giovani, come dire, alla riscossa di cui stiamo parlando oggi. Però se io avessi una figlia adolescente mi piacerebbe leggerlo insieme a lei, potrebbe essere un modo io per condividere qualcosa. Ecco. Io lo consiglio a tutti i genitori di adolescenti proprio per capire il loro mondo. Molti genitori non sanno appunto che esistono questi canali su YouTube dove ci sono delle vere e proprie star che nascono dal nulla. Quindi magari l'occasione è comprare il libro, guardarlo insieme, guardarsi insieme poi un video su YouTube, magari criticarlo anche, però ecco, farlo insieme è sicuramente un ottimo consiglio. Tra l'altro, ovviamente, Greta Menchi anche su Sky con Social Face, Sky 1 con altri youtuber come Favij Stepney, con Favij anche tra le voci di un film di animazione che uscirà tra qualche settimana, a Ratchet & Clank, quindi è proprio il personaggio del momento. Ma sveliamo la ragione per cui sei al telefono e non sei in studio con me, Alessandra. Vabbè, sono al telefono perché chiaramente sono a Torino, ci sono venuto per il salone del libro, insomma per lavoro e per diletto è inevitabile per me questo appuntamento. E visto che tu mi avevi dato questa mission, giovani alla riscossa, io ho cercato anche un po' di cose al salone del libro che potessero avere, diciamo, un senso con il tema della giornata. Alcuni che li ho trovati per contrappasso e alcuni perché veramente si tratta di giovani alla riscossa. Allora, da cosa partiamo? Da allora, giovani veri? Allora, io partirei da una cosa che mi ha colpito al salone del libro. Diciamo che ho creato la categoria adulti che si sentono ancora bambini, un po' però deviati. Ok. No, ma ti spiego perché. Perché si sta iniziando a parlare di questo nuovo libro di Michael Cunningham, lo scrittore americano, sai, quello che vinse il Pulitzer per Le Ore, che ha pubblicato con la nuova casa editrice La Nave di Teseo, ed è stato presente qui al salone del libro, Un cigno selvatico. Lui che cosa ha fatto? Ha preso 10 favole tradizionali che tutti abbiamo sentito durante la nostra infanzia e le ha rielaborate in modo dark e anche un po' perverso. Quindi per tutti quegli adulti che vogliono sentirsi bambini, però con la mentalità dell'adulto, Un cigno selvatico di Michael Cunningham, secondo me, è l'ideale. Mi piace questa così deviazione sul tema del giovane anagraficamente. Rimaniamo sui giovani, per modo di dire? Sui finti giovani. Allora, la categoria che ho trovato è quelli che erano ragazzi e sono rimasti sempre ragazzi. Noi quando pensiamo allo scrittore Aldo Nove pensiamo sempre al fatto che lui sia un 25-30enne. Non è vero, è cresciuto come tutti noi, insomma. Non è più un giovane cannibale, come si diceva un tempo. Esattamente, perché lui fu l'autore 20 anni fa di uno dei casi editoriali degli anni 90 del libro Ubinda, erano praticamente dei racconti che raccontavano appunto la sua contemporaneità, e c'era una forte critica al consumismo, alla televisione, parlava anche di pornografia, di perdizione, e fu un libro che influenzò moltissimo quell'epoca. Tu citavi cannibali perché si creò questo, diciamo, filone letterario dei cannibali, di cui faceva parte per esempio anche Ammaniti, cioè scrivevano cose un po' pulp. Beh, insomma, adesso Aldo Nove, il finto giovane a questo punto, quello che è ancora nella nostra mente giovane, ha appena scritto il sequel di Ubinda, che si intitola Anteprima Mondiale, anche questo libro pubblicato dalla Nave di Teseo. Racconta, diciamo, la realtà attuale, questi ultimi 10 anni, possiamo dire, che mancano proprio di speranza. Lui, per esempio, in un pezzo di questo libro parla del boia dell'Isis che guarda i Teletubbies prima delle esecuzioni, che pare una cosa vera, insomma. sul suo sito, sulla sua pagina Facebook, l'ha definito questo anteprima mondiale un Wubinda 2.0. Diciamo che, sono sue parole, rispetto a 20 anni fa la farsa è diventata tragedia. Sono molto curiosa di conoscerlo, anche perché appunto giovane alla riscossa, io all'epoca ero una giovane lettrice all'epoca di Wubinda. Qualcosa invece qualcosa invece che magari possano leggere i bambini e i ragazzi? Guarda, un consiglio per bambini, diciamo, sono, lo sai, l'abbiamo detto anche la scorsa puntata, ci sono molti scrittori che ormai scrivono un po' alla Sepulveda, favole che possono andare bene per i bambini ma che hanno anche un doppio, diciamo, livello di lettura e possono essere lette dagli adulti. Qui al Salone del Libro mi ha colpito L'anno che non caddero le foglie di Paola Mastrocola, pubblicato da Guanda. È una storia apparentemente molto semplice. Ci si trova all'improvviso in un mondo, in un autunno, in un, cioè una stagione in cui le foglie si rifiutano di cadere. E allora tutti, i bambini, gli adulti, si chiedono perché. C'è una scoiattolina, non so se si può dire in italiano al femminile scoiattolina, che inizierà a fare delle indagini, facendosi così, diciamo, delle domande sulle leggi della natura, la felicità e così via. Quindi secondo me è un libro adatto dai 6 anni in su, che anche gli adulti possono leggere. I bambini ci troveranno qualcosa di poetico, di magico, anche di, del senso appunto della ricerca della felicità, e qualche adulto può tornare bambino. Mi piace molto. Alessandra, abbiamo ancora il tempo per un consiglio, magari qualcosa che abbia colpito te, che tu vuoi consigliare. Il consiglio personale, personalissimo, di Alessandra Tedesco. Il consiglio personale è un libro di una scrittrice che supera i 70 anni, credo ne abbia 74-75, è una scrittrice francese bravissima, lei si chiama Annie Ernaux, e l'anno scorso in Italia è stato pubblicato dall'Orma Editore il romanzo Gli anni. È un romanzo, diciamo, autobiografico, lei racconta la sua storia dal dopoguerra ad oggi, ma è caratteristica e è famosa Annie Ernaux perché racconta sempre la sua storia individuale, ma nello stesso tempo è una storia collettiva. È veramente questo Gli anni, un romanzo poetico e vero. E quindi io lo consiglio innanzitutto a chi non è più ragazzo, perché ci si può ritrovare naturalmente anche nelle icone, nelle pubblicità che lei racconta, nel modo di vivere, nei fatti storici, per i nostalgici, ma anche per chi quelle epoche non le ha vissute e vuole conoscere il passato attraverso gli occhi di una scrittrice veramente che io apprezzo molto, Annie Ernaux, Gli anni. Mi segno anche questo, troppe cose devo leggere. Dopo i nostri appuntamenti con i libri mi viene in mente sempre, cioè mi viene voglia sempre di leggere un sacco di cose. Alessandra, ultimo consiglio al volo, ovviamente cacciatore di libri, immagino che poi nelle prossime puntate ci parlerai molto di Torino. Prossimo sì, appuntamento? Prossimo appuntamento stasera alle 22, per chi si è perso l'appuntamento delle 6.30, per chi non è mattiniero, e come sempre podcast. Grazie Alessandra, al prossimo sabato ti aspetto in studio. Baci da Torino. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo... Il sabato del villaggio. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. Mi commuove sempre questa When You Wish Upon a Star, poi questa versione di Louis Armstrong è così tenera, così sentimentale. Allora, buongiorno Maria Luisa Pezzali. Ciao Marta, buon pomeriggio. Mi hai detto, per questa puntata dedicata ai giovani ragazzi della riscossa, Pinocchio. E io ho detto, vabbè, andiamo a prendere un classico di Pinocchio di qualche annetto fa. Ma perché Pinocchio? Perché grazie a un compleanno di cui parliamo tra pochissimo mi è venuto in mente uno dei libri italiani più amati e conosciuti nel mondo, appunto un libro scritto nel 1881 da Carlo Lorenzini in arte con Lodi, quindi dal nome del suo paese di nascita, una piccola frazione del comune di Pescia in provincia di Pistoia. Ecco, perché a volte noi lo diamo per scontato, sì. Ma secondo me se chiediamo a tanti dov'è con Lodi non lo sanno dire al primo colpo. Guarda, io al primo colpo non lo sapevo, mi sono assolutamente dovuta documentare. Proprio qui a Collodi, che compie 60 anni, il parco a tema dedicato a Pinocchio, che in molti non conoscono. Per questo compleanno, che si celebrerà il 28 maggio, ci sono una serie di iniziative speciali, ce le facciamo raccontare nel dettaglio da Isabella Belcari, che è la responsabile delle attività culturali della Fondazione Collodi. Buon pomeriggio Isabella. Salve. Allora, ci parli del parco, che è un vero e proprio tuffo nella favola di Pinocchio, è così? Sì, il parco, come avete appena accennato, è stato concepito negli anni 50 proprio per far vivere al visitatore, adulto o piccolo che fosse, ma soprattutto per i bambini, la storia di Pinocchio attraverso lavori di artisti ambientati in uno spazio verde. È stato fatto a Collodi appunto perché qui Collodi ha trascorso l'infanzia, pur essendo nato per la precisione a Firenze, però poiché la famiglia della madre risiedeva qui, a un certo momento da bambino è venuto a vivere con loro e ha trascorso diverso tempo prima di rientrare a Firenze all'inizio, diciamo così, dell'adolescenza. E poi è rimasto molto legato a questo luogo dove tornava anche da adulto, fino a scegliere come pseudonimo il nome del piccolo paese quando ha scritto, soprattutto in particolare quando ha scritto per bambini. E quindi negli anni 50, quando questo libro ormai aveva fatto il giro del mondo, però si può dire da nessuna parte c'era qualcosa che ricordasse degnamente il suo scrittore, fu sviluppata l'idea di ricordarlo attraverso il suo personaggio appunto più amato e più famoso. E così è nato questo parco, che poi negli anni si è accresciuto, tenendo d'occhio anche la necessità appunto dei bambini giustamente di viverlo anche come un gioco, non solo come un luogo di arte e di natura, però sempre rimanendo fedeli e vicini al libro. E così in 60 anni abbiamo collezionato più di 8 milioni di visitatori, di cui circa un 25% dall'estero, e quest'anno in maggio appunto festeggiamo questo compleanno particolare, in particolare la giornata del 28, che è l'ultimo sabato di maggio. Le scuole stanno per finire, tutti abbiamo voglia di stare insieme all'aperto, di rilassarsi finalmente e di incominciare a assaggiare le vacanze. Quindi Pinocchio è ancora una magia anche per i bambini del 2016? Sì, quello sicuramente, e soprattutto una cosa molto importante è qualcosa che possono condividere con gli adulti che stanno loro vicino, che siano gli insegnanti, che siano i genitori, i nonni o in generale, ecco, gli adulti che sono con i bambini possano condividere con loro questa storia. Infatti vediamo come nel parco appunto i ricordi e le emozioni di ciascuno legate a questa storia si intreccino e diventi un motivo proprio di condivisione, un momento davvero da vivere insieme, ecco, fra grandi e piccini. E questo è importante oggi come oggi, quando invece le nostre vite sono spesso molto molto separate. Quanto è viva la favola di Pinocchio nel mondo? Dunque, noi riceviamo continuamente notizie di nuove edizioni di Pinocchio, abbiamo una biblioteca collodiana dove cerchiamo per quanto possibile di documentare tutto ciò che viene pubblicato, collegato in qualche modo a Carlo Collodi, ma per quanto riguarda Pinocchio è un'impresa veramente sfibrante, perché le riedizioni con nuove illustrazioni, con nuove traduzioni, spesso anche integrali, sono continue. siamo arrivati a collezionare più di 3.000 edizioni di Pinocchio da oltre 100 paesi, con oltre 110 lingue diverse, solo parlando delle edizioni integrali, e sicuramente qualcosa manca, quindi la nostra ricerca non è finita. Poi, per quanto riguarda altre forme di espressione al di là del libro, vediamo continuamente uscire film, cartoni animati, adattamenti teatrali, musical ispirati a Pinocchio. Non molto tempo fa in Olanda, nel parco di Efteling, che è un grandissimo parco tematizzato sulle fiabe e di grande tradizione perché è all'incirca coetaneo del nostro parco, è stata aperta una nuova area completamente dedicata a Pinocchio e sta riscuotendo un grande successo. Stiamo per andare a visitarlo il prossimo mese, siamo invitati a vederlo, abbiamo anche collaborato in varie maniere alla realizzazione di quest'area. E quindi sì, pensiamo che sia ancora molto vivo, e soprattutto ce lo dimostrano appunto le visite continue che abbiamo al parco, sia da parte di scuole che spesso ci raccontano come usano Pinocchio nella loro attività di insegnamento, sia da parte di famiglie, addirittura anche adulti, in gruppo o da soli. È veramente una storia trasversale che ha ancora molto da dire. Io tra l'altro stavo curiosando il sito pinocchio.it, c'è tutto, e quindi verremo a curiosare, soprattutto verremo a vedere questo parco, mi ha molto molto molto incuriosito. Grazie Isabella Belcari, grazie a presto. Grazie a voi, ti aspettiamo allora il 28 maggio. Che bella questa scoperta nuova, Maria. Beh, Luisa. Più giovane alla riscossa di così. Ma poi un giovane che ha tutti quegli anni ed è esatto. ancora dice le bugie, mamma mia, ancora dice le bugie. Non imparano. Beh, come mai. Ha tanti compagni di avventura. Sì, in questo. Anche secondo me. È il momento delle chicche di Cristina Lazzati. Cristina, ci sei? Eccomi qui, ecco, buon pomeriggio. Qua, buon sabato Cristina. Allora, questa volta cosa ci hai scovato per il nostro sabato? Allora, noi parliamo spesso di figli, famiglia, di aiuti alle famiglie, eccetera. Allora ho pensato di andarmi a cercare quei siti o quei luoghi che danno una mano alle famiglie un po' tout court, perché alle famiglie non ci sono solo i bambini piccoli, ci sono spesso genitori anziani, nonni che magari hanno bisogno di una mano anche se non di assistenza, e magari nel contempo tu hai bisogno di una babysitter oppure di qualcuno che ti porti il cane, eccetera, eccetera. Allora sono andata a trovare e ci sono effettivamente dei progetti famiglia. Bene, segnalo un paio. Uno si chiama Progetto Famiglia Network, un altro Progetto Assistenza e infine l'ultimo è Vita Assistance. Tutti e tre più o meno fanno le stesse cose, sono dislocate in varie parti d'Italia, basta andare sui vari siti e si trova se ce n'è uno vicino. Molti di loro offrono sia servizi badanti ma anche sostituzioni di badanti, piuttosto che prelievi fatti direttamente a casa, piuttosto che cucinare, e altrettanto offrono invece servizi di babysitteraggio su lunga durata piuttosto che di babysitter magari on the spot. Più in alcuni, a seconda delle zone, c'è anche, non so, la possibilità di avere il giardiniere o addirittura l'autista. L'autista non è sempre solo una cosa di lusso per ricchi, tra virgolette, ma è anche magari la persona anziana che ogni certo. giorno deve andare a fare la terapia ed essere accompagnato quindi da qualcuno. Quindi sono servizi che, come dire, molto trasparenti, quindi è tutto alla luce del sole, sono certificati, perché bisogna fare molta attenzione poi quando queste agenzie, eccetera, verificate sempre che le persone siano assunte regolarmente e che quello che pagate all'agenzia sia un prezzo equo, sì, per pagare i servizi dell'agenzia, ma che qualcosa arrivi anche alla persona che poi vi portate in casa o che comunque sta a contatto con i vostri figli o con i vostri genitori. Quindi ho trovato una cosa molto carina, ma poi ho trovato anche qualcosa di diverso oltre questi, il family manager. Voi sapevate che esisteva un family manager? No, ma sento già di averne bisogno. Già solo col nome sento già che fa per me. È una manager specializzata, quindi diciamo sesso femminile, nella pianificazione delle attività familiari, una professionista che gestisce gli impegni quotidiani delle neomamme in linea di massima, perché spesso sono quelle più impegnate, fa l'assistente personale, ma poi prosegue con appuntamenti con gli insegnanti, piuttosto che pagamento di bollette, piuttosto che sbrigare quelle incombenze che spesso portano via un sacco di tempo, tipo la coda alla posta piuttosto che all'INPS, piuttosto che per pagare i vari contributi. Non viene via poco, ve lo dico già, quindi dire, è vero che sul sito assumerne una con le tante sicuramente costa di più, però in linea di massima è proprio una cosa, se la famiglia è molto complicata, viaggia a 200 all'ora e ci sono quattro figli da mandare tutti a scuola, beh, forse a quel punto bisogna cominciare a pensare anche alla family manager. Beh, può essere anche il suggerimento per una nuova professione. Esattamente, esattamente. A proposito di nuove professioni per donne che in linea di massima si rimettono in circolo, magari dopo essersi dedicate ai figli o perché magari decidono di cambiare completamente vita, consiglio di andare a vedere Networks Mama. Qui vale sia come convenienza, tra virgolette, perché effettivamente ci sono servizi di 200 professioniste di vario genere che per un motivo o per l'altro scelgono di lavorare da casa. Quindi c'è da quella che ti fa l'analisi del tuo SEO, del tuo sito per vedere se stai facendo le cose giuste, a quella che ti controlla la partita IVA e ti fa le piccole denunce dei redditi, piuttosto che quella che ti aiuta a disegnare la tua immagine online e social. Quindi tante mamme che si sono, come dire, appunto sistemate in un network, sono su di un sito, e ovviamente sullo stesso sito è possibile, se si è una mamma che ha voglia di ricominciare, iscriversi e mandare curriculum, e loro ti aiutano, come dire, a sistemare la tua pagina in maniera tale che sia attraente e ben documentata. Mi piace molto. Come sempre preziose le chicche che ci trova Cristina Lazzati dal mondo dei consumi, ma anche dei servizi, perché vedo che sono cose veramente utili per tutti. Grazie, al prossimo sabato, Cristina. Grazie a voi, buon sabato sera e buona domenica. Ciao. Ciao Cristina, domenica è anche il giorno di essere a vere. Maria Luisa, quando? Ciao Marta, alle 22 come sempre. Ciao a tutti. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Il sabato del villaggio. Ripartiamo con Francesca Michielin, che ci ha tenuto compagnia all'inizio di questo sabato del villaggio, perché questa sera sarà lei a rappresentare l'Italia nella finale dello Eurovision Song Contest, il festival europeo per eccellenza, il festival musicale che riunisce tutta l'Europa. Quindi l'Italia punta su di lei, lei che è arrivata allo Eurovision Song Contest partendo dall'inizio da X Factor. Quindi ci è così venuta alla mente la domanda più spontanea: ma che fine hanno fatto tanti di questi ragazzi che sono passati per i talent, e che magari alcuni di loro li abbiamo un po' persi di vista, ma stanno facendo cose, stanno preparando cose? Per saperlo ci colleghiamo con una delle nostre esperte preferite, critico musicale e amica del sabato del villaggio, Chiara Di Giambattista. Ciao Chiara! Ciao Marta, ciao a tutti! Allora Chiara, io quando ti ho detto vediamo un po' che fine hanno fatto, a te chi è venuto in mente subito? Guarda, in realtà c'è stato un sovraffollamento, perché in realtà tutto il nostro panorama musicale e televisivo negli ultimi anni è stato attraversato da molti degli artisti che sono nati dai talent, e naturalmente ti parlo principalmente di X Factor e Amici, che sono i due principali, quelli che hanno sfornato dei talenti insomma un po' più duraturi. Sia per quanto riguarda, certo, perché ad esempio The Voice mi fa venire in mente subito Suor Cristina, però finora non tanto. Ma, insomma, finora lei ha fatto un buon successo all'estero, qui in Italia un pochino meno, però insomma diciamo che è stata sicuramente un fenomeno, questo lo possiamo dire, perché comunque la sua vittoria fece anche piuttosto scalpore all'interno di The Voice. Allora, proviamo a partire dalla primissima edizione di X Factor e ti faccio già dei nomi. Ti dico per esempio Giusy Ferreri. certo. Giusy Ferreri, che era nel team di Simona Ventura. Giusy Ferreri, insomma, ha avuto un successo esplosivo all'inizio. Ha avuto qualche anno un po' di calma, mettiamola così, e poi negli ultimi 12 mesi è stata protagonista delle classifiche, perché il suo pezzo insieme a Baby K è stato sicuramente una grandissima hit. Degli Aran Quartet che vinsero quell'edizione di X Factor, non esiste più il gruppo degli Aran Quartet, ma Antonio Maggio è tuttora un cantautore che nel 2013 ha vinto comunque Sanremo Giovani. Quindi ci sono dei passaggi, no? Si passa da un talent a Sanremo, molti di loro hanno fatto questo tipo di percorso, certo, di passare da un talent ed arrivare a Sanremo. Nella seconda edizione ci fu quella che è stata, insomma, che negli ultimi anni ha dimostrato grande spessore, che è Noemi, anche all'ultimo Festival di Sanremo, insomma. Poi è stata a sua volta all'interno di The Voice uno dei coach dei ragazzi. Dopodiché, sempre in quell'edizione, c'era Matteo Becucci, che ha comunque poi cambiato un po', ha deviato un pochino la sua strada e ha deciso di fare un po' i musical. E poi uno degli autori in questo momento più quotati, che ha lavorato con Emma, Chiara Cagliazzo e Noemi, che è Daniele Magro, che comunque aveva una voce pazzesca e però nello stesso tempo comunque in questo momento sta fornando un successo dopo l'altro. Ce ne sono vari che abbiamo perso di vista magari come cantanti, magari per il momento, perché esatto, può essere che arriverà di nuovo un'occasione per tornare di fronte ai riflettori, però in tanti fanno gli autori. Beh sì, Tony Maiello per esempio, anche lui, prima edizione di X Factor, e in questo momento ha scritto l'autore dell'ultimo successo di Francesco Renga, un pezzo per Laura Pausini, Zero Gravity per Lorenzo Fragola. Insomma, anche lui poi vinse la categoria dei giovani del Festival di Sanremo del 2010, quindi anche lui. Virginio vinse l'edizione di Amici nel 2011, la stessa in cui arrivò seconda Annalisa Scarrone, quindi insomma anche lì, beh, insomma, certo, c'è parecchio da fare, insomma. Annalisa, che comunque negli ultimi Festival di Sanremo ci ha fatto sentire dei pezzi veramente notevoli. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. X Factor, altri nomi che ti posso fare, se vogliamo parlare di Eurovision, per esempio Marco Mengoni, perché Marco nel 2013 ha rappresentato l'Italia, dopo essere passato anche lui per il Festival di Sanremo, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest. Ti posso raccontare di Michele Bravi, per esempio. Ah, Michele Bravi, sì, perché è un X Factor più recente. Esatto, la settima edizione di X Factor, ma Michele Bravi è uno di quelli che ha voluto anche reinventarsi altri canali di comunicazione, nel senso che in questo momento Michele Bravi è uno degli youtuber, così si chiamano, assolutamente più di successo, ha quasi 300.000 follower su Twitter, il suo canale YouTube è visitatissimo, i suoi video hanno milioni di visualizzazioni e in questo momento effettivamente è uno di quelli che ha preso questo nuovo filone, insomma, che è quello dello youtuber, e sta avendo un ottimo successo. Poi sempre da X Factor sono usciti Lorenzo Fragola. Nella stessa edizione, qua c'è un crossover pazzesco, nell'ottava edizione dove vinse Lorenzo Fragola di X Factor partecipò anche Leiner Riflessi, che allo scorso Sanremo è diventato il leader dei Dear Jack, che avevano partecipato ad Amici e che erano rimasti orfani di Alessio Bernabei. Beh, un incrocio magico. Un incrocio pazzesco. Ma anche Amici, come dicevamo, come abbiamo detto in questo momento, è stato effettivamente, ha sfornato tantissimi successi. Per esempio, mi viene in mente uno dei primi vincitori, insomma, quelli tra i più importanti, è stato Antonino nel 2005, che il 22 aprile scorso ha pubblicato un album per la Universal, Nottetempo, di cui insomma si sta parlando perché è un ottimo disco. Poi c'è stata Karima, Marco Carta nel 2008, che si è un po', Marco Carta e Valerio Scano, si sono un pochino reinventati su un altro canale, che è quello televisivo. Marco Carta ha partecipato all'Isola dei Famosi, mentre invece Valerio Scanu, soprattutto negli ultimi mesi, è stato uno dei protagonisti delle serate, delle prime serate di Rai 1 con Ballando con le Stelle e anche di Tale e Quale, perché comunque abbiamo riscoperto anche questo suo lato ironico, assolutamente una voce pazzesca, ma anche questa sua grande capacità di calarsi nei panni di tanti altri artisti, insomma. Poi Amici ha sfornato naturalmente Emma, Loredana Errore, Deborah Jurato, che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo con Giovanni Caccamo, e l'ultimo anno, l'ultima edizione, quella che, insomma, non quella che è ancora in corso, ma quella dell'anno scorso, ha visto vincitori Stash and the Colors, che hanno fatto numeri pazzeschi e si preparano ad andare a registrare un disco negli Stati Uniti. Quindi effettivamente basta volerle fare, basta essere coerenti, basta essere, aver voglia di lavorare e comunque avere un ottimo talento. Io credo che i talent possano essere sicuramente un ottimo trampolino di lancio. Ecco, questo credo che, insomma, contro ogni critica che si possa fare ai talent, che sicuramente possono avere qualche pecca per quanto riguarda, credo, qualche piccola illusione che ci si possa fare. Io credo che la cosa che più importante sia pensare che il talent non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, e quindi da là bisogna rimboccarsi le maniche, come ci hanno dimostrato, ecco, appunto, Marco Mengoni, Emma, Alessandra Moroso, insomma, che stanno diventando delle stelle internazionali assolutamente, e che invece stanno, insomma, si sono, come dicevo, rimboccati le maniche e hanno deciso di andare avanti e lavorare sodo. Io sono personalmente molto curiosa dell'album a cui sta lavorando Josada, che ha annunciato un singolo prima dell'estate. Secondo me lui potrebbe darci qualcosa. Lui potrebbe essere una grande, sì, perché poi lui è stato l'ultimo vincitore dell'edizione di X Factor e anche lui ha avuto per lì un grandissimo successo. In molti si aspettavano che avrebbe partecipato a Sanremo, invece è stata fatta questa scelta, insomma, di non aveva, credo, un pezzo pronto, ma insomma è uno di quelli che potrebbe avere un ottimo riscontro sicuramente, ecco. E poi devo dire, hai citato Loredana Errore e leggevo che ultimamente pare stia ricominciando a frequentare Emma Marrone, che stiano preparando qualcosa insieme. Ne sai qualcosa? Guarda, si sa pochissimo di questa cosa, ma entrambe, sia Loredana Errore che Emma Marrone, sui loro social, su Instagram e su Facebook, hanno pubblicato delle fotografie insieme e hanno commentato con grande affetto questo incontro, questo nuovo incontro. E quindi secondo me bisogna tenerle d'occhio, perché nei prossimi mesi effettivamente potrebbero, insomma, tirar fuori qualcosa di molto interessante. Grazie Chiara, io voglio ricordare il tuo account di Twitter, che è @ChiaraDiGiamba1, con l'1 in cifra, @ChiaraDiGiamba1. Grazie a Chiara Di Giambattista per essere stata con noi. Grazie poi, Marta, grazie a voi. A un prossimo talent ci presentiamo io e te in duo e spacchiamo in coppia veramente, tutto. Ma spacchiamo tutto. Ciao Chiara, alla prossima. Ciao Marta, grazie. Ringraziando Chiara Di Giambattista, io do appuntamento a voi invece dopo il giornale radio, perché saremo insieme per la terza ora del Sabato del Villaggio, che sarà quella di Radio Tube.